Ci siamo. Continuiamo la nostra avventura attraverso il libro degli Atti. Vi ricordate? Vi piace? Ci piace questa avventura attraverso gli Atti degli Apostoli? Non so a voi, però io mi entusiasmo quando devo leggere quello che Gesù ha fatto attraverso persone come me e come te che hanno vissuto tanto tempo fa, ma che hanno conquistato ogni territorio, ogni promessa e hanno vissuto quella vita che Dio aveva precedentemente preparato per loro affinché la praticassero. Questa cosa mi entusiasma, mi ispira, perché dico, ok, posso farlo anche io. Se ci sono riusciti loro, io posso riuscirci a mia volta a fare tutto questo. E siamo arrivati al capitolo 9. E nel capitolo 9 del libro degli Atti degli Apostoli abbiamo letto e visto la conversione che Saulo ha avuto, di come Saulo ha incontrato Gesù sulla via di Damasco. Vi ricordate? Qualche domenica fa l'abbiamo visto. Perché è Saulo che Gesù ha incontrato. Paolo non lo conosceva nessuno. Paolo non esisteva. C'era solo Saulo. E che cosa faceva Saulo? Perseguitava e uccideva tutti coloro che credevano in Gesù. Eppure Gesù sceglie di incontrarlo. Già solo questo, io credo per noi oggi, è assurdo. Perché io penso alle persone nel nostro mondo che magari ci perseguitano e che non ne vogliono sapere di Gesù. Noi mai penseremo che Gesù le voglia incontrare. Mi sono intrippato con i congiuntivi, però avete capito quello che volevo dire. Noi mai andremo ad immaginare che proprio quella persona che viene contro di me è quella che Gesù vuole incontrare. È incredibile! Eppure Gesù ha incontrato Saulo. Ha scelto Saulo. Cioè ha visto la vita di Saulo, ha visto quello che lui stava facendo e lo ha scelto. Si è rivelato a Saulo. E noi abbiamo visto dalle testuali parole di Saulo la scorsa volta, nella testimonianza che lui racconta prima davanti a tutti i giudei al capitolo 22 di Atti e poi davanti al re Agrippa nel capitolo 26, quello che è stato il suo incontrare Gesù attraverso le sue testuali parole. E questa mattina vogliamo continuare. Vogliamo continuare a comprendere questo perché è la grazia divina di Cristo Gesù che viene a prenderci, che ci incontra nella sua sovranità e dà valore e dignità alla nostra vita. Dà valore e dignità alla nostra storia, della nostra vita, facendoci e abilitandoci ad entrare a far parte di una storia molto più grande, che è iniziata molto tempo prima che io e te potessimo nascere ed entrarvi a farne parte e continuerà ancora per tantissimo altro tempo che noi non ci saremo più qui fino a quando Gesù ritornerà su questa terra e ricompirà quello che è la nuova creazione di un nuovo cielo e di una nuova terra. E quando questa grazia divina nella sua sovranità dà valore e significato alla nostra vita e ci permette di entrare a far parte di tutto questo, io credo che allora noi realmente ci sentiamo vivi. Sì? E quando tu hai incontrato Gesù e Gesù ti ha fatto capire tutto quello che lui aveva preparato per te, che tu ti sei sentito veramente vivo. Perché questa è la ricerca intorno a noi. Ognuna delle persone intorno a noi vuole sentirsi veramente viva. Ognuna delle persone intorno a noi cerca la sua modalità per sentirsi veramente viva. Ma è solo con Gesù che noi scopriamo l'obiettivo della nostra vita. Perché? Perché questa storia di cui noi entriamo a far parte ci racconta di una missione. Ci racconta della missione che Dio ha da sempre. Il suo piano per raggiungere il nostro mondo, che è stato rotto dal peccato, dalla disubbidienza, dalla ribellione, dall'odio. Il suo piano di salvezza. Il suo piano di salvezza che trova compimento nella venuta di Cristo Gesù. È Cristo Gesù la nostra Pasqua. E lo abbiamo festeggiato domenica. abbiamo mangiato l'agnello, poi siamo andati al rifugio, abbiamo fatto la pasquetta, abbiamo mangiato, non lo so, che cosa avete mangiato al rifugio? La lasagna, c'era una lasagna al rifugio? Elisa, c'era la lasagna, hai visto? C'era la lasagna, c'è sempre. Elisa, che cosa hai preparato per la pasquetta? La lasagna, lo sapevo io. È Gesù Cristo la nostra Pasqua. E lui è morto e lui è risorto, lui ha sacrificato la sua vita per noi. Ed è incredibile come la tradizione religiosa intorno a noi ci vuole sempre portare a pensare che siamo stati noi che abbiamo deciso che lui doveva morire, no? Che ci fa un po' peccato, no? Tutte le processioni, questa tristezza, e dobbiamo fare la quaresima, e non dobbiamo mangiare quello, e ci dobbiamo frustare, perché è peccato. Peccato Gesù, peccati pure noi, non è che deve peccare solo lui, pure noi dobbiamo essere peccati. No? E viviamo incredibilmente con questo pensiero nella nostra testa e non ci rendiamo conto che è lui che ha sacrificato la sua vita. Non siamo noi che gliel'abbiamo tolta, è lui che l'ha donata. Perché questo era il suo piano. Questo era l'obiettivo perché lui era venuto su questa terra. Perché attraverso la sua morte e la sua resurrezione lui ha distrutto il potere della morte. E ha permesso a noi, chiamando la sua Chiesa, a continuare la sua missione di portare quella salvezza nel nostro mondo rotto dal peccato, rotto dalla ribellione e rotto dalla disubbidienza. Questa cosa è troppo grande per il nostro cervello, almeno per il mio. Cioè io sto cercando, in questa avventura che stiamo vivendo insieme, di mettere delle parole intorno per spiegarla affinché il mio cervello la possa capire. Perché se io la capisco, io poi la vivo e la voglio vivere e mi impegno per viverla. Però è un po' difficile, non so se per voi riuscite sempre a comprenderla. Però una cosa è sicura ed è certa, che attraverso il riempimento dello Spirito Santo, noi oggi, la sua Chiesa, possiamo continuare a portare a compimento quella missione e quel piano che lui ha stabilito da eternità passate per eternità future. Sì? Ci piace? Vi piace? Gesù vivo abilita noi a comprendere qual è il nostro posto all'interno di questa storia. Gesù vivo permette alla storia della nostra vita di diventare un piccolo tassello di una storia molto più grande. Gesù vivo abilita la nostra vita ad entrare in tutto questo. Gesù vivo permette alla storia della nostra vita di diventare un piccolo frammento, un piccolo segmento di un piano eterno. Ed è qui che noi capiamo il valore e la dignità che noi abbiamo. Ed è qui che noi ci svegliamo la mattina, diciamo sì, oggi mi sono svegliato. Oggi cambierò il mondo, perché il mio piccolo tassello della mia piccola storia sarà parte di una storia molto più grande. E così è stato per Saulo. Infatti così inizia il capitolo 9 raccontandoci che Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Saulo, nella sua corsa per se stesso, non aveva deciso per Gesù. Saulo aveva deciso e stava scegliendo di correre la sua corsa, e in questa corsa lui non aveva considerato Gesù. Anzi, lui si era armato di soldati, di armi, di permessi, perché li doveva fare neri, ai seguaci e a tutti quelli che dicevano che credevano in Gesù. Non è Saulo che ha deciso per Gesù, piuttosto è Gesù che ha deciso per Saulo. E nella sua grazia sovrana è intervenuto nella sua vita. perché è la grazia sovrana di Cristo Gesù che interviene nella nostra vita, che ci viene a prendere da dove noi ci troviamo per portarci a vivere in un posto dove Lui ha preparato per noi, che è diverso da dove noi ci troviamo, è un posto dove noi non potremo mai andare se Gesù non ci viene a prendere. Perché? Perché la mano del Signore, Isaia 59, ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare. Non è troppo corta per salvare anche Saulo. Né il suo orecchio è troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio e i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Sono le nostre iniquità e il nostro peccato che ci fa vedere e pensare di essere separati da Dio, ma il suo braccio e la sua mano e il suo orecchio è per noi. È per noi. E questo vale sempre. Questo vale con me. Questo vale con te. Questo vale con le persone intorno a noi. La sua mano non è troppo corta per salvare. Quindi che cosa significa questo? Che questa grazia sovrana, divina, che ha catturato la vita di Saulo è improvvisa? Cioè arriva dal giorno alla notte questa grazia e con un colpo di bacchetta magica ci trasforma da Saulo in Paolo e noi non abbiamo neanche capito quello che accade, però improvvisamente noi ci troviamo tra le braccia di Gesù. Saulo ce lo spiega bene come lavora questa grazia sovrana, come ha lavorato questa grazia sovrana nella sua vita. E lo abbiamo letto insieme la volta scorsa nella sua testimonianza che dà davanti al re Agrippa, al capitolo 26, versetto 14, dove nel raccontare come lui ha incontrato Gesù sulla via di Damasco, lui usa le parole che Gesù gli rivolge e Gesù gli dice: Saulo, Saulo, ti è duro recalcitrare contro il pungolo. E io mi sono sempre chiesto: ti è duro recalcitrare contro il pungolo. Però poi sai, quando tu leggi quelle cose, vabbè, andiamo avanti. Poi qualche cosa la capirò dopo, no? Allora, questa volta mi sono fermato per capirla, va bene? Era importante capirla questa volta. Recalcitrare contro il pungolo è un proverbio, un antico proverbio greco che descrive l'inutile resistenza dei buoi quando vengono domati. E quindi ho detto, ok, l'inutile resistenza dei buoi quando vengono domati. Ma quindi il pungolo, che cosa è? E ho visto la definizione da dizionario Treccani. Il pungolo è un bastone che porta infissa a una delle estremità una punta di ferro che serve a pungere i buoi o altri animali per stimolarli a procedere. Cioè il pungolo è un bastone con una punta di ferro che il domatore punzecchia. No? I buoi, dice, è da là che dovete andare. È da là che dovete andare. Recalcitrare, che sembra tipo un po' 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando, sono riuscito a dirlo, eh? Dite com'è, recalcitrare. È una parola che impariamo oggi insieme. Sempre da dizionario, la definizione dice degli animali da sella, da tiro e da soma, impuntarsi indietreggiando o tirando calci. Opporsi ostinatamente e fare resistenza. Quello che Gesù gli dice sulla via di Damasco è: hai finito di opporre resistenza a tutte le cose che io ti ho fatto vedere fino ad oggi? Mo è che ti devi stendere davanti a me perché io ti ho scelto. Almeno così fa con me Gesù. Io mi prendo queste licenze poetiche. Ora è arrivato il tuo momento. Questa grazia sovrana non è improvvisa, viene dolce, viene graduale, viene gentile e nella sua sovranità ci prepara a quel giorno in cui la mano del Signore potrà fare breccia nel nostro cuore. Ci prepara. Quindi non è improvvisa, ma cosa significa? Che questa grazia sovrana che ha catturato la vita di Saulo è compulsiva? Cioè arriva nella nostra vita e schiocca le dita e noi dobbiamo decidere quello che la grazia ha deciso. E quindi la grazia ha deciso che noi dobbiamo dire di sì e ci salva. E noi dobbiamo essere salvati senza aver capito che cosa significa, senza aver capito come si fa, decidendo. Quindi a questo punto chi deve essere salvato e chi non deve essere salvato. È compulsiva questa grazia? No. Non è compulsiva, ma gradualmente e senza violenza pungola il nostro intelletto, pungola la nostra coscienza. E così ha fatto per Saulo. Sin da quando lui ha provato la morte di Stefano, sin quando Stefano è stato lapidato davanti a lui e ai suoi piedi hanno deposto le sue vesti, la grazia sovrana di Cristo era lì che lo pungolava e diceva: ehi, io sto qua, questo qua si è fatto uccidere per me, eh? E tu che dici? Sin da quando Saulo entrava di casa in casa e strappava i capelli alle donne e li imprendeva per la testa e li imprigionava in prigione e li voleva punire in ogni cosa, la grazia sovrana di Dio stava lavorando dietro le quinte. Stava lavorando dietro le quinte nella vita di Saulo per prepararlo al giorno in cui, lui avrebbe avuto la possibilità di essere libero, di poter scegliere se accettarlo o meno nella sua vita. Questo è quello che fa la grazia sovrana. La grazia sovrana non calpesta la nostra volontà, non calpesta il nostro essere uomini. La grazia sovrana rispetta il nostro essere umani e ci fa essere veramente umani. È il peccato che ci rende schiavi. È il peccato che fa nascondere la nostra faccia davanti alla faccia di Dio e viceversa. La grazia sovrana ci prende per mano e ci accompagna ad essere liberi e a scegliere nella nostra libertà di dire di sì a quello che è il braccio che Gesù ci tende. Molto importante questo, molto importante, ed è incredibile vedere come la storia di Saulo inizia all'inizio del capitolo 9 con la sua partenza da Gerusalemme armato da persecutore dei cristiani, pronto con un permesso per farli tutti fuori, e si conclude la storia di Saulo nei versi 28-30 della sua conversione, scusatemi, non la storia della sua vita, ma la storia della sua conversione, si conclude con la sua partenza da Gerusalemme, questa volta come cristiano perseguitato. Da persecutore era diventato un perseguitato. È incredibile, è incredibile. Saulo non correva più per se stesso. Saulo non correva più per se stesso. Aveva iniziato nella sua vita a fare la sua corsa e a un certo punto la grazia sovrana lo ha catturato e lui ha detto di sì. E da quel momento in poi sarebbe stato Paolo e avrebbe corso come Paolo e avrebbe vissuto una storia che avrebbe raccontato una corsa che era per Gesù. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Ce lo ha letto il pastore domenica scorsa. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate tutte nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. Non imputando agli uomini le loro colpe, ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Queste sono le parole che Paolo scrive ai Corinti. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché diventassimo giustizia di Dio in lui. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per il nostro mezzo. Punto numero uno, noi corriamo non per noi stessi. Noi corriamo non per noi stessi. E Saulo aveva avuto un bravissimo discepolatore che gli aveva fatto e gli aveva dimostrato questo, ed era Anania. Perché nel verso 17 noi leggiamo che allora Anania entrò. Abbiamo Anania che si trova qui, discepolo di Gesù. La Bibbia ci insegna che i credenti di Damasco avevano una buona testimonianza di quella che era la storia della sua vita e di come lui correva per dare gloria a Gesù. A un certo punto Anania andò ed entrò in quella casa e gli impose le mani e disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquistassi la vista e sia riempito di Spirito Santo. A un certo punto la vita di Anania si è incontrata con la vita di Saulo. A un certo punto la storia della vita di Anania ha incontrato la storia della vita di Saulo. Questo mi fa riflettere. Da chi noi dobbiamo andare? Da chi tu devi andare? In quale casa devi entrare? A chi devi imporre le mani? Per pregare, ovviamente. A chi devi dare quelle parole che lo Spirito Santo ha messo dentro di te? E anche se dovessi entrare in casa di Saulo e dovessi imporre le mani sulla sua vita e dargli tutte le parole che lo Spirito Santo mette nel tuo cuore, stai coperto. Stai coperto. La grazia sovrana di Dio è con te, è sopra di te, è davanti a te, è dietro di te, è dentro di te. Anania è uscito incolume dalla casa di Saulo, eppure fino a quel momento li aveva uccisi tutti. Poi è arrivata Anania, è andato tutto bene. Anania ha corso una corsa non per se stesso. E forse noi ci dimentichiamo della sua vita. Forse noi ci siamo dimenticati della sua storia. Forse esce in questa parte del capitolo 9 e poi nessuno ne parla mai più. Ma la verità è che la storia del mondo è cambiata anche perché Anania è entrato in quella casa e ha incontrato Saulo. La nostra storia oggi è cambiata perché Anania non ha corso per se stesso. E al verso 28 di Atti 9, da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Da allora Saulo andava e veniva e partiva da Gerusalemme, mettendo la sua vita a rischio e pericolo, testimoniando con forza e coraggio e predicando il nome di Gesù fino a rischiare di morire. Perché se noi leggiamo che lui viene calato con una cesta da una finestra di un'abitazione sulle mura di Damasco. Voi pensate, o di Gerusalemme, voi pensate a Paolo che si mette in una, voi pensateci noi in una cesta calati giù dalla finestra. Così. Oh! Per scappare. Tutte le cose erano diventate nuove. Passo dopo passo, correndo, ogni cosa era cambiata per Saulo. La sua corsa era per Gesù. Sarebbe stato Paolo, era diventato Paolo e avrebbe finito la sua vita come Paolo. Per chi stai correndo? Questa è la domanda che voglio lanciarti questa mattina. Se corri per te stesso, rimarrai Saulo. Noi corriamo non per noi stessi. E ora leggiamo il verso 31 di Atti 9. E da questo verso prenderemo i prossimi due punti che andremo a vedere insieme. E io quando l'ho letto ho pensato, sarebbe bello un giorno se io lo posso scrivere, no? Tipo scrivo una lettera a Giovanni Lupoli a Mottola e gli dico: Giovanni Lupoli, così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata. E camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. Immaginate se noi dovessimo scrivere questa lettera. Punto numero due, noi corriamo nel timore del Signore. Ora, analizzare il nostro correre nel timore del Signore ci vorrebbero ogni domenica da qui per i prossimi 10 anni. Perché io ho iniziato a vedere questo timore del Signore, sono quelle altre cose che tu leggi sempre, io lo leggevo sempre. E tu dici, timore del Signore, ma che cosa significherà? Cioè, che cosa significa il timore del Signore? Perché dobbiamo fare questa corsa nel timore del Signore? Perché Luca, l'autore degli Atti, ce lo scrive? Sarà importante. Come possiamo correre nel timore del Signore? Cioè, come si fa? E nella mia ricerca ho trovato centinaia di versi nell'Antico e nel Nuovo Testamento che ci parlano del timore del Signore e ne ho scelti alcuni. E voglio che siano loro a parlarci questa mattina, perché se noi vogliamo correre nel timore del Signore, noi lo possiamo imparare attraverso della sua parola, che è viva, l'abbiamo cantato, ed è qui. Sì? Quindi siete pronti con me per questa immersione nel timore del Signore? Siete già col naso tappato, quindi non potete dire l'immersione. Il timore, Proverbi 1. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Proverbi 9. Il principio della saggezza è il timore del Signore. E conoscere il santo è l'intelligenza. Salmo 19. Il timore del Signore è puro. Sussiste per sempre. Proverbi 14. Il timore del Signore è fonte di vita. Fa evitare le insidie della morte. Proverbi 2. Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento, rivolgi la tua voce all'intelligenza, se cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore, troverai la scienza di Dio. Il Signore, Dio ha pure una scienza, incredibile. Il Signore, infatti, dà la saggezza. Dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Salmo 111. Il timore del Signore è il principio della sapienza. Hanno buon senso quanti lo praticano. La sua lode dura in eterno. Ancora, Proverbi 23. Il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel timore del Signore, poiché c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. Proverbi 15. Meglio poco con il timore del Signore che gran tesoro con turbamento. Proverbi 19. Il timore del Signore conduce alla vita. Chi la si sazia, ecco perché gli basta poco. E passa la notte senza essere visitato dal male. Proverbi 8. Il timore del Signore è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. Ultimi. E con il timore, Proverbi 16. E con il timore del Signore si evita il male. Quante risposte che stiamo trovando. Isaia 33. I tuoi giorni saranno resi sicuri. La saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione. Il timore del Signore è il tesoro di Sion. Salmo 86. O Signore, insegnami la tua via. Io camminerò nella tua verità. Unisci il mio cuore al timore del tuo nome. E potremo continuare. Che cos'è il timore del Signore? È la chiave della saggezza e della conoscenza. È il principio della scienza e di tutto quello che si possa mai sapere. è la conoscenza di Dio stesso. E quando noi ci fermiamo e impariamo a conoscerlo, è il rispetto del potere che la sua parola ha, è il rispetto dell'autorità che la sua parola ha nella nostra vita. È l'odio del peccato. Noi corriamo nel timore del Signore quando il conoscere Lui è la cosa più importante per la nostra vita e non ci interessa nient'altro. Noi corriamo nel timore del Signore quando odiamo quello che Lui odia e odiamo il peccato. Fuggiamo dal peccato. Non rimaniamo lì. Noi corriamo nel timore del Signore quando la nostra speranza è in Cristo Gesù. E non invidieremo quello che gli altri hanno. Non ci importa. Che cosa ci potrà importare quello che il mondo intorno a noi ci può offrire, per quanto desiderabile e accattivante possa essere, se non ce ne facciamo nulla? Se sta per passare, perché finirà, come ogni cosa finirà. Quando noi corriamo nel timore del Signore, la nostra speranza è Gesù. La nostra speranza è Gesù e noi sappiamo che in Cristo le nostre promesse saranno realizzate. E noi non saremo delusi perché avremo mantenuto i Suoi comandamenti vicino al nostro cuore, perché li rispetteremo e saranno importanti per noi, perché avremo ubbidito. Oh, quanto non ci piace questa parola, ubbidire. Ubbidire, ci strillano un po' nelle orecchie quando ci saremo allontanati dal peccato. Quando ci saremo allontanati dal peccato, noi serviremo nel timore del Signore servendo Lui e la sua Chiesa con tutto il cuore e senza risparmiarci. Ultimo punto, abbiamo detto punto numero uno: noi corriamo non per noi stessi. Punto numero due: noi corriamo nel timore del Signore. Terzo aspetto che andiamo a vedere insieme: noi corriamo nella consolazione dello Spirito Santo. Noi corriamo nella consolazione dello Spirito Santo. Io sono fortemente convinto, e in genere non mi piace esternare e dire sono fortemente convinto, perché a voi non vi importa le mie convinzioni, cioè le mie convinzioni possono trovare il tempo che trovano. Oggi possono essere da qui, domani possono essere da lì, non hanno valore e non ho interesse nel dirle a voi, ma sono fortemente convinto perché Gesù mi ha convinto, perché è una sua convinzione, che se la nostra corsa la viviamo nella consolazione dello Spirito Santo, niente e nessuno ci potrà fermare. E quando la vita verrà, perché la vita può venire, e la vita ci può dare delle brutte sorprese, noi non saremo spiazzati, noi non saremo impreparati, ma la vita con le sue brutte sorprese verrà e ci troverà consolati. Se noi corriamo nella consolazione dello Spirito Santo. E c'è un bellissimo verso in Romani che l'Apostolo Paolo scrive e dice, ma noi lo conosciamo, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, il nostro Signore. E noi le confessiamo queste parole, e ci è facile farlo quando tutto va bene. Però queste parole possono rimanere delle belle parole, corrono il rischio di rimanere solo delle belle parole se noi scegliamo di non confessarle quando dovremmo confessarle, quando abbiamo bisogno di confessarle. E quando questo accade, noi poi ci isoliamo. Non so se capita a te. Ti isoli perché il dolore del tuo cuore è grande. E quando tu ti isoli, aumenta. Perché nel tuo isolarti tu stai cercando di trovare il colpevole. Perché pensi che quando avrai trovato il colpevole di quella cosa che è successa nella tua vita, allora tu troverai sollievo al dolore che tu provi. Bugia. È bugia. E questa è una bugia che noi dobbiamo riconoscere. Perché il sollievo al dolore del nostro cuore noi lo possiamo trovare solo nella consolazione dello Spirito Santo. E io so questa mattina, e so che se mi stai ascoltando su YouTube, Gesù ha messo questa parola nel mio cuore perché tu hai bisogno di confessare che vuoi correre una corsa che parli di una vita che trova la consolazione nello Spirito Santo. E ora avremo un tempo in cui Noemi ci guiderà nel pregare a conclusione dell'incontro. Ma prima di questo io voglio rompere questa bugia e voglio chiederti e voglio pregare adesso con te velocemente per arrenderci. Se tu sai che hai bisogno di riconoscere per la tua vita in questo momento che la consolazione dello Spirito Santo è quello che serve a te per correre quella corsa, per non permettere più al diavolo di venire e bloccare quella corsa, perché per quello lui viene. Io voglio chiederti di alzarti in piedi e io voglio pregare con te adesso. Se la consolazione dello Spirito Santo è quello di cui tu hai bisogno adesso, e mentre io prego, grazie per chi si è alzato, mentre io prego, se senti che hai bisogno di rompere questa catena, e dopo potrai venire avanti e potremo continuare a pregare insieme, però spiritualmente ora prendi posizione e dici: io mi alzo in piedi perché la consolazione dello Spirito Santo è vera, è mia, mi spetta, è la mia eredità e io la voglio. Signore Gesù, io ti ringrazio perché la tua grazia è sovrana e la tua grazia viene nella nostra vita, trasforma la nostra vita, trasforma quello che noi abbiamo nel nostro cuore. E noi vogliamo confessare in questo momento che la tua consolazione, Spirito Santo, possa essere quello di cui noi ricerchiamo, quello di cui noi abbiamo bisogno, quello che viene e trasforma il nostro cuore. Vogliamo arrenderci alla tua consolazione. Vogliamo sentire la tua consolazione dentro di noi. Tu conosci il dolore che noi possiamo provare, ma noi non vogliamo fermare la nostra corsa. Noi vogliamo correre, sapendo che tu ci consoli, sapendo che tu sei la parte della nostra eredità in eterno. E vogliamo ringraziarti. Vogliamo ringraziarti perché possiamo correre consolati da te. Ed è qui la nostra libertà. È qui la nostra verità. È qui la nostra vittoria. Grazie Gesù. Amen. Amen. Possiamo alzarci tutti quanti. Io l'ho riscritto il verso di Atti 9 e l'ho immaginato così, permettetemi questa licenza poetica, va bene? Immaginate che il pastore scrive una lettera a un suo amico dall'altra parte del mondo e gli dice così: così la nostra chiesa per tutta la città di Modugno e quelle vicine, la provincia di Bari e la provincia di Taranto, a pace ed è edificata e andando avanti insieme, correndo nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, continuerà costantemente a crescere di numero. Io so che questa è la nostra promessa. E io so che noi possiamo correre non per noi stessi, possiamo correre nel timore del Signore. È facile, lo puoi fare. E possiamo correre nella consolazione dello Spirito Santo. E io prego che questa possa essere la nostra corsa. Confessiamo le parole di questo coro sulla nostra vita, come sigillo di quello che Gesù ha preparato attraverso di noi.